Italia in controluce. Buon pomeriggio, oggi è il 1 febbraio, Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 nella cronaca italiana, i casi di Nera, di giudiziaria, la politica, le curiosità, il costume, lo spettacolo. Buongiorno da Daniele Biacchesi. La prima traccia di Italia in controluce ci porta a Milano, che va verso il voto amministrativo tra democrazia partecipativa e scelte delle segreterie dei partiti. Il racconto di Cristina Carpinelli. La campagna elettorale per le amministrative a Milano sta viaggiando su due treni. A destra si punta al candidato forte, già sindaco, e agli incontri con la cittadinanza, ai passaggi televisivi e alle puntate nei quartieri periferici. A sinistra si sta lavorando all'americana, in stile Obama. Ha fatto dunque strada la lezione del partire dal basso. Così a Milano, per il candidato del PD, Giuliano Pisapia, sono nate le officine per la città. 11 tavoli tematici, ciascuno guidato da un coordinatore. All'interno si sviluppano i temi già anticipati nelle primarie da Pisapia, ma questa volta il valore aggiunto lo portano le persone che spontaneamente e in centinaia hanno deciso di aderire. Ci racconta così la coordinatrice dei tavoli, Anna Puccio. L'organizzazione per tavoli evidentemente era stata fatta, diciamo, l'abbiamo fatta bene, nel senso di spiegare. Erano molto sintetici e chiari, per cui i cittadini, ma non solo cittadini, diciamo, perché sicuramente democrazia partecipata, però di fatto esperti del settore, docenti universitari, manager, imprenditori, studenti, quindi veramente variegato il target di persone che si sono avvicinate a queste cose, hanno scelto un tavolo in riferimento alle loro aree di interesse e di competenza. Questa è stata una cosa molto interessante. Siamo arrivati ad avere praticamente oltre 1000 adesioni, se le dico il numero di stamattina siamo a 1200, per dire, quindi veramente una cosa, insomma, mai successa, che ovviamente alcuni tavoli sono molto numerosi, alcuni tavoli sono di circa 90 persone, 80-90 persone. Tutti i tavoli si sono già riuniti già una volta, dove, diciamo, in una sessione plenaria ciascun tavolo con i coordinatori abbiamo spiegato un po' il metodo di lavoro. Il metodo di lavoro partecipato significa, diciamo, dividersi in sottogruppi con dei temi molto specifici e contribuire attraverso contributi scritti. Uno dei tavoli ha già fatto un altro passo avanti molto importante, che è quello di aver già portato a termine il lavoro dei sottogruppi. Questo è il tavolo della cultura, è successo sabato. Il tavolo cultura ha lavorato tutta la giornata di sabato, organizzato in 8 sottogruppi, ed è arrivato già ad un momento di sintesi, per adesso di plenaria, quindi orale, diciamo, progetti concreti. C'è il tavolo per la cultura, per la sostenibilità ambientale della città, il tavolo per la scuola, gli anziani, temi tutti di cui c'è necessità di discutere, e infatti la città ne sta parlando. Proprio nell'ambizione, no? Cioè l'ambizione di riuscire a portare un numero di cittadini competenti, informati, interessati e anche trasversali se vogliamo nella demografia della città, no? Cioè da studenti ad accademici, eccetera. Quell'ambizione di farlo è la prima volta. L'altra cosa, secondo me, è il fatto che in modo ordinato si sono distribuiti diciamo, appunto, per aree di competenza. La terza cosa è che chiaramente questa cosa sta in piedi, io lo dico veramente, in questo me lo chiedo anch'io a volte, no? La cosa sta in piedi perché il livello di motivazione, di passione che le persone ci stanno mettendo è quello che fa reggere tutto il lavoro. A destra invece come ci si muove? Il candidato, attuale sindaco, Letizia Moratti, per le elezioni amministrative 2011 continua a fare il sindaco, ci dicono i responsabili della comunicazione. Facciamo il punto di quanto abbiamo fatto fino ad ora, ci racconta Marco Osnato, vice coordinatore PDL Milano. Noi abbiamo un candidato che è già sindaco in carica, per cui non abbiamo avuto tutto, a differenza del centro-sinistra, tutta quella procedura che loro hanno identificato con le primarie, per cui noi abbiamo un candidato, e certo, al di là di qualche magari piccola schermaglia con gli amici della Lega che ogni tanto, appunto, fanno dei distinguo, però il candidato è quello e non si discute. Quindi stiamo cercando di, e in parte l'abbiamo già cominciato a fare, di fare tutta un'opera di diciamo, di comunicazione sull'attività svolta in questi 5 anni dal sindaco Moratti e dalla maggioranza che l'ha sostenuta, quindi è un'attività più che altro promozionale e conoscitiva di un'attività amministrativa e politica che si è svolta in questi 5 anni. Quindi, diciamo, tutto sommato sarà una campagna elettorale classica, tradizionale, vi rivolgerete a un elettorato, andrete nelle piazze con i comizi, sarà comunque un iter... Sì. Non c'è un'apertura invece di tavoli di discussione come... No, noi abbiamo, innanzitutto per noi ripeto, è molto diverso perché, ripeto, il rapporto col territorio l'abbiamo sempre, sia nell'attività amministrativa che in quella politica, cioè il PDL è un partito, PDL oppure Forza Italia N prima, sono dei partiti, era un partito che comunque è al governo della città dal 1997, quindi ha una consuetudine a tenere un rapporto, per cui non è che abbia necessità di inventare nuove formule di dialogo e discussioni, ha delle sedi sul territorio, ha tante associazioni culturali di riferimento. Invece attraverso i social network o comunque il web vi state muovendo, state pensando a qualche iniziativa? Ma il sindaco ha un suo sito che è molto visitato e sul quale appunto racconta assolutamente tutto quello che sta facendo, poi ognuno di noi ha siti più o meno complessi, poi c'è il Facebook che ognuno di noi usa, ma ecco, diciamo che non è che stiamo facendo almeno per adesso ancora una cosa organica riferita alla campagna elettorale. Dunque, per una volta, da tempo immemore, i due candidati, di destra e di sinistra, sono molto differenti nel modo, nella comunicazione e nell'apertura all'elettorato. E questo è già un buon segno per una città che, a guardare i forum di discussione sia a destra che a sinistra, ha bisogno di svegliarsi da un lungo torpore civile. Italia in controluce. La seconda traccia è invece girata a Torino, in uno dei quartieri più complessi della città, San Salvario. Il reportage di Maria Luisa Pezzali. Prendete un quartiere multietnico, aggiungete un centro di aggregazione sociale e culturale con un bar-ristorante, spazi per feste e mostre, spettacoli, laboratori, sportelli d'aiuto. Mescolate il tutto e otterrete una buona ricetta per la convivenza, il dialogo e lo scambio culturale. Per gustare il piatto basta andare a Torino, quartiere San Salvario, il più multietnico della città tra la stazione di Porta Nuova e il Parco del Valentino, e varcare la soglia della casa del quartiere. Inaugurata lo scorso settembre, nata dalla ristrutturazione di quelli che una volta erano i bagni pubblici della città, la casa è il primo progetto che in Italia ricalca esperienze internazionali già consolidate, come la Casa Encendida di Madrid. La casa del quartiere è una casa per tutti, un punto di aggregazione in cui è possibile partecipare ad attività culturali, corsi di danza, musica, teatro, ma anche ricevere informazioni e aiuto per la soluzione di problemi quotidiani, dalla ricerca del lavoro alle pratiche legali, dall'assistenza psicologica fino alla riparazione della bicicletta. Integrazione è una parola difficile da definire, ci dice Giulietta Alfieri, presidente dell'Agenzia di Sviluppo Locale San Salvario, la ONLUS che coordina il progetto. Ci piace di più parlare di convivenza, ci sono associazioni di diversa provenienza che convivono e che stanno anche interagendo tra di loro, per esempio c'è l'associazione filippina che utilizza gli spazi per fare incontri propri, ma che si sta accordando con un'altra associazione per realizzare un progetto comune. C'è l'associazione Bab Sahara gestita da marocchini per esempio organizza un corso di lingua araba al mattino a cui partecipano anche 3 bambini italiani, perché vicino alla casa del quartiere c'è la scuola Manzoni Ranieri che è una scuola frequentata per il 50% dei bambini stranieri, che è una percentuale superiore rispetto agli abitanti stranieri del quartiere. È chiaro che l'idea è quella di aumentare la frequentazione anche di cittadini stranieri e di coinvolgerli. L'abbiamo visto frequentare da tutti, assolutamente non soltanto dai cittadini del quartiere, ma da persone provenienti da tutta la città e anche da fuori. Adesso dovremo fare un monitoraggio della quantità di persone che frequenta la casa del quartiere abitualmente, ma è davvero importantissima, tutte le ore, bambini, ragazzini, anziani, abbiamo fatto le feste per gli anziani si ritrovano a ballare una volta a settimana, cioè davvero i target sono delle più varie, sono state fatte le feste di matrimonio, di compleanno di diciottenni, insomma è davvero un posto particolare. La casa del quartiere è una sorta di matrioska, ogni realtà racconta mille storie, come il bar-ristorante al centro della struttura, i bagni municipali. Ogni mese si inventa qualcosa, dall'aperitivo balcanico alla banca del tempo. L'organizzatore Enrico Gentina della cooperativa La Tavola di Babele. La presunzione è un po' quella di essere al servizio del territorio come casa del quartiere, della quale appunto Bagni Municipali è parte, proponendo delle attività, proponendo delle iniziative, non fermandoci alla ristorazione, per cui al mangiare bene, a mangiare chilometro zero, mangiare bio, eccetera, ma anche a far riflettere le persone su una serie di temi, magari proprio abbinandoli alla cucina, perché poi attorno alla cucina si può veramente far cultura. Mettere a disposizione del quartiere un contenitore per tutte le associazioni fa sì che poi le associazioni possano parlarsi tra di loro, e quindi stanno nascendo una serie di idee, una serie di progetti in cui più associazioni che si sono incontrate alla casa del quartiere, ai bagni, hanno iniziato a ragionare insieme. Quello è sicuramente integrazione. Abbiamo un'utenza che va dal neonato accompagnato dalla mamma fino ai settantenni che magari a mezzanotte bevono ancora un mojito. La seconda edizione di Italia in Controluce sul sito radio24.it, le puntate di questo programma, ma anche il blog di Italia in Controluce, poi Facebook Radio24 Italia in Controluce, Twitter in Controluce, mail controluce@radio24.it. Torniamo domani su Radio 24, 6:30.